America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Today we are filing a federal civil rights lawsuit against the state of North Carolina. Loretta Lynch, ministro della giustizia di Obama, beh, la sua dichiarazione è molto semplice. Dice: oggi facciamo causa allo Stato della North Carolina, al suo governatore Pat McCrory, al Dipartimento per la Pubblica Sicurezza della North Carolina e all'Università del North Carolina per aver violato i diritti sull'uso dei bagni da parte dei transessuali. Ecco. Torniamo alla questione dei bagni. Ne avevamo parlato parecchio tempo fa. Lo sviluppo è interessante perché la Carolina del Nord ha deciso di proseguire lungo la sua strada, e cioè di impedire che ci sia un utilizzo dei bagni a seconda delle preferenze sessuali dell'individuo che le usa, e questa cosa, come ricorderete, aveva già creato una certa polemica alla vigilia delle elezioni in Indiana, quando ci fu lo scontro fra Cruz e Trump. Dunque, i cicli si ripetono. Interessante che la storia ovviamente ritorni, ma ancora più interessante il fatto che quella volta la polemica politica si risolse a favore di Trump, che poi vinse l'Indiana e di fatto vinse la nomination. Sul piano politico la situazione non è molto diversa da quella di ieri. C'è l'incontro atteso fra Trump e Paul Ryan, il presidente della Camera, giovedì, e Trump ha alzato il tiro. A un certo punto ha detto addirittura: beh, io sconfesserò Ryan, non voglio che sia il chairman della convention se non è d'accordo con me, l'agenda è mia, sono io che ho vinto i voti. E quando Ryan gli ha ricordato che il Partito Repubblicano ha dei valori conservatori, beh, Trump gli ha risposto: il Partito Repubblicano si chiama Partito Repubblicano e non Partito Conservatore. Dunque la battaglia politica continua, la seguiremo nei prossimi giorni. Oggi però vorrei occuparmi di un tema molto di attualità, e cioè della Libia. Due paesi, Tunisia e Italia, molto interessati allo sviluppo positivo della crisi libica. Ecco, avete sentito il ministro degli esteri Gentiloni, che era a Tunisi, ha parlato di Libia, si parlerà di Libia il 16 maggio a Vienna. Il ministro Gentiloni ha confermato che Italia e Stati Uniti stanno organizzando una conferenza proprio sulla Libia. Il 18 maggio, la settimana prossima, a Roma, 40 ministri dei paesi africani saranno a Roma per un vertice con l'Italia, dove naturalmente, parlando di Africa, si parlerà anche di Libia. E dunque io vorrei farvi ascoltare una chiacchierata che ho fatto un paio di giorni fa con Francesco Semprini, corrispondente alla stampa qui dagli Stati Uniti, ma anche spesso inviato di guerra. Sentiamo. Buongiorno Francesco. Buongiorno a te Mario, buongiorno agli ascoltatori. Allora Francesco, ma di nuovo ti sei messo l'elmetto un po' alla fallace, sei partito alla conquista della Libia questa volta, dalla Siria alla Libia. Assolutamente sì, sono venuto per capire un po' la situazione sul campo qual è. Ecco, scusa, sul campo, dimmi dove sei intanto in questo momento, mentre ci stiamo parlando. Sono nella piazza della cattedrale, o meglio quella che una volta era la cattedrale, il punto di riferimento della comunità. Ecco, allora scusa, ti interrompo subito Francesco, perché tu sai che io sono nato a Tripoli, dunque ho memoria di questa città. Assolutamente, ecco, sì. Ecco, sì, bene, sì. bene. Sì, allora scusa, dammi un'idea, tu in questo momento, diciamo, hai alle spalle la cattedrale, sei in questa piazza cattedrale, quindi descrivimi cosa vedi, perché io non so se alcuni dei palazzi che c'erano sono ancora in piedi. Allora, alla sinistra ho un palazzo dove ci sono delle abitazioni, un po' rovinato da ovviamente quelli che sono i segni della guerra, della rivoluzione, della seconda guerra libica del 2014. Sulla destra ho le poste che funzionano ancora, anche se parzialmente, non certo a pieni regimi. Poi dall'altra parte c'è un palazzo interessante, molto bello da un punto di vista architettonico, fatto con degli archi, dove c'è poi un cortile giardino interno. E ecco, scusa, allora ti fermo subito, perché questo palazzo che tu vedi davanti, che chiamavamo il palazzo dell'INPS, è il palazzo nel centro di Tripoli dove sono nato, ed era, in realtà noi abitavamo dall'altra parte che guarda ai giardini, e però quel palazzo è molto bello e così di ispirazione, quasi, come dire, potrebbe sembrare un dipinto di De Chirico, perché ci sono questi alti archi e questa altre cose che tu hai descritto, cioè le poste sulla destra e questo palazzo residenziale sulla sinistra con questa piazza circolare, sono un tipico esempio di quello che è stato chiamato il razionalismo libico, perché devo dire che gli architetti italiani, da Florestiano Di Fausto, Marcello Piacentini, insomma, hanno fatto delle opere molto importanti in questa città. E allora abbiamo un po' fatto una diversione, però mi rassicura sapere che queste costruzioni e questa impostazione urbanistica che hanno creato gli italiani negli anni 10, negli anni 20, negli anni 30, resta più o meno in piedi, poi più in là c'è il lungomare, ma non voglio andare down memory lane e voglio tornare a quello di cui invece dobbiamo occuparci. Qual è la situazione sul campo? Cominciamo da quello. La situazione sul campo è complicata, è difficile. Abbiamo un paese spaccato a metà, nella parte occidentale c'è il governo di Fayez al-Sarraj, voluto dalla comunità internazionale, che sta tentando di rimettere in moto la macchina burocratica. Nella porzione orientale invece il generale Haftar sta facendo una guerra contro sia lo Stato islamico sia tutti quei gruppi, quei movimenti che in qualche modo sono ostacolo al suo progetto di creare una zona autonoma e quindi di poter controllare di fatto una parte del paese e le produzioni petrolifere relative a quella parte. Ecco, quindi mi stai dicendo che di fatto, nonostante questo governo sia stato pubblicizzato come governo di unità nazionale così via, di fatto però il paese è già spaccato in due. Esattamente sì, è il governo di Fayez al-Sarraj, un governo orfano della metà dello Stato libico, cioè quindi una porzione orientale. E quindi cosa succede in tutto questo? Succede che il governo libico a questo punto deve partire in guerra contro gli altri, si può fare un compromesso, devono intervenire le truppe internazionali, che sviluppo vedi? Il punto è capire fino a dove il generale Haftar vorrà spingere, perché fino adesso la situazione si sta cercando di risolvere da un punto di vista negoziale, di dialogo, da un punto di vista politico, tentando di ricomporre le parti, ma bisogna capire il generale Haftar veramente dove vorrà arrivare, perché in quel caso questa sua campagna di acquisizione di territori, di controllo, rischia di richiedere una risposta con la forza. Ecco, io ho parlato qualche giorno fa, diciamo, con un importante diplomatico vicino agli Stati Uniti, e questo diplomatico mi ha detto che insomma la situazione in Libia per loro resta molto molto preoccupante. Ecco, in tutto questo l'Italia cosa dovrebbe fare? Come è vista? C'è davvero questa così ambizione a che gli italiani vengano ad aiutare? Ma guarda, io ti devo dire, c'è molta Italia, c'è molta italianità, c'è molta voglia d'Italia in questo paese. Ho sentito sempre parlare in maniera positiva del nostro paese, della nostra gente, anche della nostra classe politica. Quindi loro vogliono avere l'Italia come interlocutore privilegiato, ma loro allo stesso tempo non vogliono un'ingerenza, non vogliono quelli che gli americani chiamano boot on the ground, cioè avere presenza militare sul territorio. Sì, vogliono che l'Italia possa aiutare il paese, hanno anche richiesto all'Italia di aiutare il paese in determinate situazioni, però vogliono che sia fatto nell'ambito di una cornice di legalità che è quella delle Nazioni Unite. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più né più difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Francesco, ci sei sempre? Dalla Libia, da Tripoli, Mario. Sei sempre in linea, perfetto. Allora, perché non lanci tu? Che ti viene in mente come canzone che potremmo dedicare ai nostri ascoltatori da Tripoli? Beh, per rimanere in tema, Mario, tu sai che la prima guerra che è stata combattuta dagli americani al di fuori dei confini nazionali nel 1801 fu proprio contro i pirati di Tripoli, e furono inviati per combatterla i Marines nella loro prima missione estera, e quindi io proporrei di sentire l'inno dei Marines, il cui testo parla proprio delle spiagge. Eh beh, certo, l'inno dei Marines, from the halls of Montezuma to the shores of Tripoli. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!